presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. En réalité, la première fois que Petrarca e Boccaccio se sont rencontrés à Florence, la ville était en proie à la première crise financière du temps et à la peste. Donc c'est très intéressant que l'humanisme elle a répond à ces situations de difficulté. Vi eravamo abituati a sentirlo parlare in inglese, Matteo Renzi, insomma, più o meno se la cavicchia anche in francese nello stesso modo, poi in italiano, poi in francese. Comunque ci teneva a dire che Boccaccio e Petrarca, insomma, avevano trovato una Firenze con la grande crisi finanziaria e con la peste, che poi con l'umanesimo è rinata. Così ha parlato la Sorbona oggi, l'università francese, dove tra l'altro studiava anche la giovane ricercatrice che è stata italiana uccisa negli attentati a Parigi, e ha detto una serie di cose. Anche per prima aveva incontrato Hollande, sapete che Hollande sta facendo questo giro di colloqui con i vari leader, sia europei sia anche oggi il presidente russo Putin. Nei giorni scorsi aveva incontrato Obama per cercare di allargare questa coalizione. E a proposito di questo, c'è una vera svolta che riguarda la Germania, che ha deciso di agire in primo piano, come leggevo poco fa da una dichiarazione, mandando, questa poi è notizia che da stamattina, i Tornado e anche una nave da guerra in Siria per solidarietà con la Francia e per allargare, comunque partecipare, insomma, a questa coalizione anti-ISIS. Se ne parleremo, perché questa è una svolta proprio storica per la Germania, per quello che è stato il suo ruolo fino adesso dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci occuperemo anche della tensione che intanto continua a salire tra Turchia e Russia dopo l'abbattimento del jet russo. Ieri cercavano un po' di frenare su questa escalation, come si dice. Oggi però Erdogan dice: io ho provato a telefonare a Putin, non mi ha risposto. E Putin tra l'altro sta mettendo in atto varie ritorsioni diplomatico-economiche, non solo nei confronti della Turchia. Quindi tutte queste cose parleremo anche di un allarme dell'OMS sull'AIDS. Eravamo abituati quasi a non parlarne più, a ritenerlo come qualcosa di appianato, di ormai in parte risolto. Non è così, c'è un allarme fortissimo, ne parleremo di questo, e anche di un allarme sul clima, ma varie cose insomma piuttosto rassicuranti come sempre, però cercherò di raccontarvele nel modo più tranquillo possibile. Se vedete qui Effetto Notte, un sacco di notizie, dobbiamo stare del resto su quello che succede. Parleremo anche di calcio naturalmente. Voi potete esprimere le vostre opinioni sulle notizie di questa sera sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte come sempre, sia al 349 238 6666, anche per esempio sia su questa svolta della Germania, o anche su per esempio una frase che ha detto il ministro del lavoro Poletti, che non conta un fico laurearsi a 28 anni con i massimi voti, meglio laurearsi con un 96 ma a 21 anni. Voi siete d'accordo? Ho messo vari input sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma vi dicevo anche quei messaggi come sempre al 349 238 6666, potete rispondere. Intanto andiamo a vedere che giornata è stata. La guerra all'ISIS, la Germania invierà i propri Tornado e una nave da guerra in Siria. Gli incontri di Hollande per estendere la coalizione, il presidente francese dice a Putin: ora è tempo per un'assunzione di responsabilità, è assolutamente necessario, risponde Putin. E Renzi dice: noi già presenti in Libano e offre collaborazione alla Francia. L'abbattimento del jet russo, Erdogan non vuole scusarsi con Putin ma dice: se avessimo saputo che era russo non avremmo abbattuto il jet. Bruxelles, il livello di allerta per il rischio di attentati terroristici scende da 4 a 3, ma Bruges-Napoli, la partita si gioca a porte chiuse. Il viaggio del Papa in Africa, Dio ammonisce, non serve a strumentalizzare le violenze. Ferrovie, si dimette il CDA, nuovi manager per privatizzare, il ministro Padoan dice presto le nuove nomine. Allarme della OMS sull'AIDS, in 10 anni niente passi avanti, politiche inefficaci, mai così tanti casi in Unione Europea, in Italia record di sieropositivi. Clima, il quinquennio 2011-2015, il periodo più caldo mai registrato, lo rivela il rapporto del World Meteorological Organization, anche di questo parleremo. Editoria, Molinari è il nuovo direttore della Stampa, russo con direttore, Gamellini resta vice direttore e anche direttore creativo dell'editrice Itad. Teddy, Teddy l'editrice. Parliamo quindi della svolta della Germania nella lotta all'ISIS e rispetto, dicevo, anche alla propria storia. Dopo l'incontro di ieri con la cancelliera, tra la cancelliera Merkel e il presidente francese Hollande, la Germania quindi ha deciso di partecipare in primo piano, di inviare tra i 4 e i 6 Tornado in Siria più una nave da guerra. E di questa novità, di questo valore sia simbolico e sia anche militare, parleremo tra poco qui a Effetto Notte. Tra l'altro oggi a Berlino c'è stato un blitz antiterrorismo in due moschee, sono stati fermati due sospetti. Intanto Hollande prosegue il suo incalzante giro di incontri con i leader europei. Nei giorni scorsi però ha incontrato anche Obama e oggi, dopo Renzi al Cremlino, ha visto Putin, che gli ha assicurato piena cooperazione. Ma sentiamo qual è stato l'esito dell'incontro con Renzi oggi all'Eliseo. Nous devons avoir la volonté de rassembler et de réunir. La risposta al terrorismo deve essere comune, serve una strategia diplomatica ma anche militare comune. Così François Hollande nella conferenza stampa congiunta con il premier italiano Renzi, che si colloca all'interno di una serie di incontri che Hollande sta tenendo con i leader mondiali nel tentativo di allargare la coalizione pronta a prendere le armi contro lo Stato islamico. L'impegno dell'Italia non cambia, gli ha fatto eco il premier Renzi, il quale ha sottolineato anche che bisognerà dare priorità assoluta anche al dossier Libia, che rischia, ha detto, di essere la prossima emergenza. Che ci sia una coalizione sempre più ampia e sempre più capace di dare una risposta che porti all'obiettivo che Hollande ha espresso molto chiaramente, la distruzione di Daesh. Noi pensiamo che ci sia bisogno di una risposta culturale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto io direi di mettersi d'accordo sul nome che si dà, ISIS, IS, Daesh, ormai sarebbe bene anche da lì cominciare con una cosa, diciamo, unitaria. Intanto restano molto tesi, vi dicevo, i rapporti tra Russia e Turchia dopo l'abbattimento da parte di quest'ultima del cacciabombardiere russo. Erdogan, presidente turco, non vuole scusarsi con Putin, però dice: e se avessimo saputo che era russo non avremmo abbattuto il jet. Quindi vuol dire che non avevano riconosciuto, che non sono riconoscibili questi cacciabombardieri. Ma il presidente russo avvia una serie di ritorsioni, vi dicevo, economico-diplomatiche, di cui parleremo più tardi. Ora in Italia il ministro dell'interno Alfano ha firmato il decreto di espulsione di un tunisino residente in Brianza e dice: con quella di oggi sono 60 le espulsioni eseguite dalla fine dello scorso mese di dicembre. E a proposito della posizione italiana sulla crisi siriana, Alfano ha detto: prima di cominciare vogliamo sapere se la Siria diventa una Libia bis oppure se c'è un quadro, un piano chiaro per il dopo. E oggi c'è stato un vertice antiterrorismo al Ministero della Giustizia. Sentiamo in proposito il ministro Orlando. Ormai qualunque tipo di strumento supportato dalla rete, da quelli che consentono di scaricare la musica, all'altere diciamo una chat, e quella chat può essere utilizzata anche per scambiare informazioni che non hanno niente a che vedere con l'oggetto per cui è ipotizzata quella chat. E sapete quale potrebbe essere l'oggetto? La PlayStation. Pensate quante PlayStation, quanti giocano con questo strumento in casa, dappertutto. Dice, deve essere monitorata anche quella. Veramente cominciamo a essere in un mondo un po' particolare. Siamo adesso però sull'economia italiana. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, sempre legando a questi temi del rischio terrorismo, oggi a Napoli, all'Unione degli Industriali, ha detto: la paura del terrorismo pesa sull'economia globale e anche quella italiana ne risentirà. E aumenta intanto il divario nord-sud per quanto riguarda la ricchezza pro capite. È un'Italia letteralmente spaccata in due, quella fotografata dall'Istat sul PIL pro capite. Un divario enorme divide infatti il nord Italia dal mezzogiorno, gap che si è ampliato rispetto al 2013 a causa della crisi economica. Nel nord-ovest il guadagno pro capite supera i 32.000 euro e nel nord-est i 31.400 contro i 17.600 del mezzogiorno. Tra le regioni con reddito più alto la provincia autonoma di Bolzano con circa 22.500 euro, seguita dalla Lombardia con oltre 21.000 euro e dall'Emilia Romagna. All'opposto Basilicata, Campania e Calabria, quest'ultima fanalino di coda con 12.300 euro. 7 regioni italiane su 20 vedono la ripresa con un prodotto interno lordo in crescita. E aumenta l'emigrazione degli italiani. Negli ultimi 5 anni sono più che raddoppiate le partenze. Destinazioni preferite Germania, Regno Unito, Svizzera e Francia. Diminuisce infine l'immigrazione internazionale in Italia, calata del 38% negli ultimi 5 anni. Meno romeni, marocchini e cinesi e soprattutto soprattutto moldavi, mentre aumentano pakistani e bengalesi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo del virus dell'HIV e allarme AIDS in Europa. Si parla di record di nuove infezioni negli ultimi 10 anni. È sparito questo argomento dai mezzi di informazione, dalle campagne anche di informazione in generale. Insomma, si è molto abbassata l'attenzione e quindi purtroppo pare che gli effetti si vedano. È un allarme lanciato oggi da OMS e dal Centro Europeo per il Controllo della Malattia. Dal 2005 il numero di nuove diagnosi in Europa è aumentato continuamente e ora ha toccato un livello mai visto neanche negli anni 80. Ne parliamo con Maria Carla Re, docente di microbiologia all'Università di Bologna, responsabile del laboratorio Retrovirus e agenti infettivi HIV correlati al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Buonasera, dottoressa Re. Buonasera, buonasera a lei. Quindi noi pensavamo effettivamente, non parlandone più, non sentendo più chissà quali allarmi o notizie, che fosse un po' appianata la situazione. Invece sembra che addirittura neanche negli anni 80, cioè quando fu scoperto il virus... No, sicuramente non abbiamo i dati degli anni 80. Oggi abbiamo sicuramente un grande problema, che sono le infezioni, la diagnosi delle infezioni tardive. Noi abbiamo 140.000 positivi, sieropositivi in Italia, e il problema fondamentale sono sicuramente le nuove infezioni e il fatto che ancora vengono registrate ogni anno anche in Italia naturalmente, e il fatto che le persone arrivano tardivamente alla diagnosi, quindi quando oramai diciamo il sistema immunitario è gravemente compromesso. Quindi è l'informazione che manca e la campagna informativa, come lei ha detto all'inizio, effettivamente è molto deficitaria a questo livello. E quello che dobbiamo sicuramente fare è, in una situazione in cui il rischio, la percezione del rischio è molto bassa, è quello di poter avere degli strumenti ed effettuare delle misure, degli interventi di prevenzione, di fornire delle informazioni accurate sulla trasmissione, soprattutto identificando quali sono i soggetti a rischio più elevato. Grazie, dottoressa Re. Grazie a lei, arrivederci, buonasera. Buonasera. Adesso per la cronaca, la donna che è stata uccisa ieri dal marito, fucilate nel Perugino, a Perugia anzi, di una donna di 43 anni, e adesso l'uomo è accusato anche di premeditazione. Nel frattempo la presidente di Telefono Rosa, Gabriella Carnieri Moscatelli, dice: sono 153 donne ammazzate, ne abbiamo parlato ieri nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, proprio ieri c'è stato questo ulteriore femminicidio, dice 153 donne ammazzate, è una cifra spaventosa. Come spiega Renzi il taglio alle risorse per il contrasto alla violenza sulle donne? Chissà, dice, se ammetterebbe Renzi mai che se avessimo avuto un attacco terroristico con una simile perdita di vite umane, cioè fino adesso 153, lo Stato si sarebbe sentito obbligato a fare qualcosa di enorme, di importante. Clima, alla vigilia del COP21, della conferenza delle Nazioni Unite, il quinquennio 2011-2015 risulta il periodo più caldo mai registrato, lo rivela il rapporto della World Meteorological Organization, di cui parleremo più tardi con Effetto Notte. Poi una notizia che viene dal mondo dell'editoria: Maurizio Molinari è il nuovo direttore della Stampa dopo che Calabresi ha annunciato ieri che andrà a Repubblica. E per chiudere questa prima parte, il calcio con l'Europa League che torna, e torna il nostro Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Eccomi, ciao Roberta. Torna l'Europa League e torna con una bella notizia e mezzo per il calcio italiano, perché si sono da pochi minuti chiuse le partite di Fiorentina e Lazio. E allora, la bella notizia è che la Lazio ha vinto 3-1 contro gli ucraini del Dnipro e quindi è aritmeticamente qualificata ai sedicesimi di finale. È stata una partita messa in discesa abbastanza in fretta dalla Lazio, gol di Candreva al quarto minuto, poi c'è stato il pareggio nella ripresa al ventesimo del Dnipro con Bruno Gama, ma immediatamente Parolo ha segnato il 2-1. E poi nel finale c'è stato il 3-1 di Giorgiovic, dunque Lazio qualificata ai sedicesimi di finale e molto probabilmente anche come prima del girone. E poi c'era la Fiorentina, che aveva una situazione un po' più complessa nel suo raggruppamento, è finita 2-2 a Basilea, e c'è anche un po' di polemica e di sfortuna. La Fiorentina vinceva 2-0 con doppietta di Bernardeschi nel primo minuto, anche se era nel primo tempo, anche se era rimasta in 10 per l'espulsione di Gonzalo Rodriguez. C'era un rigore netto negato ai Viola. Piano piano il Basilea ha rimontato al 40° gol di Sushi, nella ripresa alla mezz'ora gol di Elneny. Insomma, alla fine è uscito questo 2-2, pareggio però anche tra Belenenses e Lech Poznan nell'altra gara del girone, quindi significa che tra 2 settimane in casa contro il Belenenses la Fiorentina deve almeno pareggiare per passare il turno. e poi da 11 minuti sono in campo Bruges e Napoli, lo sappiamo tutti, c'è la questione sicurezza, stadio chiuso per volere delle autorità belghe, risultato ancora fermo sullo 0-0, il Napoli che è già qualificato, già certo del primo posto, c'è molto turnover, 8 undicesimi di formazione titolare riposano, giocano soltanto Calleon, Hamsik e Koulibaly tra i potenziali titolari della gara di lunedì sera, gara scudetto contro l'Inter al San Paolo. Grazie Giovanni Capuano, poi ci aggiorniamo dopo sui risultati, su come procedono le partite. Intanto vedo i vostri messaggi a proposito della frase di Poletti: non conta un fico laurearsi troppo tardi anche con voti massimi, è meglio laurearsi prima con voti bassi. A Poletti bisogna ricordare che normalmente ci si laurea a 22-23 anni, dice Fabio. Poi per trovare lavoro basta iscriversi alle COP PD. Beh Fabio, in realtà quando c'è poco lavoro e nei tempi che viviamo abbiamo visto che ovunque ci si giri bisogna appoggiarsi a qualcuno al di là di quale tipo di sigle siano. E poi invece sulla pagina Effetto Noto vi ho lanciato anche quest'altro input a proposito di quello che ha detto Enrico Letta, ex presidente del Consiglio. Ha detto: l'Italia è in bilico, seguire la sua antica tradizione cerchio bottista rispetto all'ISIS significa rompere con la solidarietà europea e con la Francia, sarebbe una furbizia irresponsabile, è il momento di mettersi con decisione al fianco della Francia colpita, il che non vuol dire, dice Letta, sia chiaro, mandare i nostri soldati a Raqqa, cioè la capitale del sedicente Stato Islamico. Allora, come commentate? Devo dire che trovo piuttosto pertinente, fra l'altro, la risposta di Marco. Vediamo se ha detto Marco Baccosi, dice: direi che è il distillato del cerchio bottismo questo di Letta, perché effettivamente dice dobbiamo mostrare concretamente la nostra solidarietà ma non mandiamo i nostri soldati. Allora non si è capito perché cerchio bottista, per esempio Renzi, ma non lui con la sua affermazione. Continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook del programma e anche al 349-238-6666. Tra poco con gli ospiti. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Andate a leggere la frase di Enrico Letta che ho riportato sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo che effettivamente non era solo quello di Marco in quella linea come messaggio, ma anche Elena scrive sì, ma anche no, oppure forse non vedo la differenza fra ciò che afferma l'ex premier Letta e l'attuale. Quindi di che si parla a proposito di cerchio bottismo rispetto all'intervento in Siria? E anche Maurizio dice: Letta e Renzi entrambi cerchio bottisti, entrambi democristiani, è il nuovo che avanza. E così gli altri messaggi. Giacomo scrive: PS, Renzi potrebbe estendere gli 80 euro ai francesi grazie alla flessibilità europea. Un po' di spirito e un po' di amarezza, anche un po' di ironia fra i vari ascoltatori e ascoltatrici, sia sulla pagina Facebook e anche i messaggi, i sms potete mandarli a 349-238-6666. Tra pochissimo cominciamo con gli ospiti a parlare anche di questa svolta, in particolare della Germania. Vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, le notizie principali. Guerra all'ISIS, la Germania invia i Tornado e una nave da guerra. Hollande-Putin, c'è stato l'incontro e passo verso una coalizione militare in Siria. Quello che si sta prospettando, tensione tra la Russia e la Turchia, continua. Mosca lancia la rappresaglia economica, arrestati 50 imprenditori turchi e rischio, insomma, i rapporti sia economici che diplomatici. Renzi alla Sorbona: non rinunceremo mai a vivere liberi. Contro il terrorismo ci vuole più intelligence ma anche cultura, dice. Antiterrorismo, intercettazioni anche su chat e PlayStation, così ha detto il ministro della giustizia Orlando oggi in un vertice sul terrorismo. E poi il caso Shalabayeva, indagati per sequestro il capo dei servizi della polizia e il questore, inchiesta a Perugia, in tutto 7 poliziotti e un giudice di pace. Poi l'appello del Papa sul clima: serve un accordo globale, dice, non prevalgano gli interessi privati, anche del clima parleremo. Poletti che dice bisogna meglio laurearsi con bassi voti ma presto, laurearsi con lode a 28 anni non serve un fico, dice. Poi si dimette il CDA di Ferrovie dello Stato. Quindi dopo gli attentati di Parigi il presidente francese Hollande, vi dicevo, sta facendo un tour di bilaterali, di incontri con i vari leader sia europei. Oggi ha incontrato anche Renzi, ieri la cancelliera Merkel, ma ha incontrato anche Obama, oggi Putin, insomma un giro molto, molto vorticoso, molto incalzante per cercare di allargare questa coalizione, questa alleanza anti-ISIS. Ed è oggi la notizia che dopo aver incontrato, appunto vi dicevo ieri, la cancelliera Merkel, che aveva già annunciato di mandare almeno 650 militari in Mali, dove è presente la Francia, per cercare di diciamo, sostenere le forze militari francesi di poterle poi spostare nella lotta contro l'ISIS in Siria. E che cosa ha deciso la Germania oggi? Di partecipare alla coalizione in realtà con 4 o 6 Tornado e una nave da guerra. Quindi la Germania metterebbe a disposizione della coalizione questi Tornado e poi almeno un aereo da rifornimento in volo e satelliti di ricognizione anche. Ne parlo con Francesco Tosato, analista del CESI, del Centro Studi Internazionali. Buonasera Tosato. Buonasera a lei, ascoltatori. Quindi, insomma, la Germania decide di giocare un ruolo di primo piano in Siria, considerando che la Germania, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con, diciamo, questo senso di colpa, questo tabù che si porta dietro, no, dopo il post-nazismo, difficilmente è interventista. Allora, in effetti sì, nel senso, la Germania dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ha avuto un approccio estremamente chiaro e lineare rispetto alla difesa e in particolare a una costituzione fortemente improntata solo ed esclusivamente sull'autodifesa nazionale, che preclude guerre di aggressione e conseguentemente, al pari del nostro paese da questo punto di vista, che ha lo stesso approccio, ha dovuto trovare una soluzione, diciamo, per gradi all'impiego delle forze armate in un contesto internazionale, soprattutto perché nel frattempo il mondo è cambiato e, come stiamo vedendo adesso, la difesa della propria sicurezza non coincide più con il soldato fermo alla frontiera fisica del paese, ma con la globalizzazione prevede anche la necessità di dover affrontare delle minacce situate a migliaia di chilometri dai propri confini. Inoltre, diciamo, l'approccio tedesco al momento privilegia assolutamente, anche per le problematiche costituzionali di cui parliamo, un approccio in cui sostanzialmente, esattamente come il nostro paese, la Germania entra in coalizioni internazionali, quindi quando soprattutto vede la necessità di preservare i valori europei e quindi in questo caso aiuta quello che è il suo partner principale in Europa, ovvero la Francia, e quindi c'è un contributo, diciamo, ad una strategia che è storicamente lineare della Germania rispetto al suo rapporto privilegiato con la Francia, oppure in un altro contesto come quello afghano decide, sempre in questo caso per esempio proprio assieme al nostro paese, di restare aumentando il contingente in una fase in cui appunto è necessario per cercare di stabilizzare al meglio la situazione di Kabul, che al momento non è delle più rose, e quindi rimane in collaborazione soprattutto con l'Italia e con gli Stati Uniti. Merkel ieri ha detto, e tra ieri e oggi ha detto, non possiamo guardare mentre l'ISIS si rafforza, è necessario l'intervento militare tedesco contro i terroristi. Ieri aveva detto non si combatte l'ISIS con le parole, quindi passata dalle parole ai fatti. E fra l'altro oggi a Berlino c'è stato un blitz delle forze speciali antiterrorismo in due moschee di Berlino, sono stati fermati due sospetti, per cui in qualche modo c'è la solidarietà della Germania, ma a sua volta si sente forse anche un pochino a rischio, no? Siete di far parte di un continente, sì, di una parte. Allora, da questo punto di vista, diciamo, ovviamente la preoccupazione della Germania, della Francia, ma di tutti i paesi europei è quella di cercare di trovare una soluzione rispetto al contesto siriano e iracheno, perché ci si rende conto che queste sono le palestre di terrorismo. Però è chiaro che, come ha giustamente ricordato lei, il fatto che i blitz vengano condotti all'interno dei confini nazionali, per la dinamica del terrorismo di matrice jihadista, una gran parte del pericolo viene direttamente dall'interno dei propri confini, perché se pensiamo a quello che è successo a Parigi, la gran parte dei terroristi aveva un passaporto francese o belga. Quindi il tema è, da un lato, intervenire con le forze di sicurezza all'interno dei paesi, monitorando quello che è lo scenario delle banlieue piuttosto che dei quartieri in cui lo jihadismo rischia di fare proseliti e comincia ad avere addirittura delle zone franche. Dall'altra parte, cercare una volta per tutte di affrontare la situazione siriano-irachena sul fronte esterno per impedire che queste persone, i cosiddetti foreign fighters, possano andare ad addestrarsi lì. Quindi Ora l'approccio tedesco, comunque, se lo vediamo per certi versi, proprio per le diciamo comunanze con l'approccio italiano, sta ricalcando anche il tipo di impegno, perché i Tornado che verranno mandati sono gli stessi praticamente in dotazione alla nostra aeronautica e faranno missioni di ricognizione con appunto delle strumentazioni dedicate, solo che adesso, da quello che sappiamo, la Germania ha scelto di focalizzarsi sullo scenario siriano, mentre, come sappiamo, i Tornado italiani volano invece sullo scenario iracheno. Già. Però diciamo il tipo di approccio è esattamente il medesimo: fornire degli strumenti adatti alla ricognizione piuttosto che al bombardamento, proprio perché c'è una valutazione di fondo, cioè il problema, la campagna aerea contro l'ISIS, tanto in Siria quanto in Iraq, va avanti ormai da moltissimi mesi con risultati estremamente scarsi. E questo perché non ci sono bersagli da bombardare. È estremamente difficile, cioè più che mandare i bombardieri, il problema sarebbe quello di riuscire a capire che cosa si colpisce. Quindi l'approccio italiano, ricalcato adesso anche dalla Germania, è quello di fornire ulteriori strumenti che lei ha perfettamente ricordato, satelliti e velivoli da ricognizione, che permettano di aiutare i bombardieri a trovare i bersagli, perché l'ISIS è un bersaglio mobile, che ovviamente utilizza tutte le strategie della guerra ibrida e conseguentemente si nasconde tra i civili, utilizza mezzi civili, fa del mascheramento la sua strategia, la sua forza principale. Grazie Francesco Tosato, chiarissimo, del CESI. Grazie, buona serata. Saluti e arrivederci. Non sempre rispondo, dipende dai giorni, dall'aria che tira tra me e i miei ricordi. E il presidente russo Putin, caro Gigi Donnelli, non ha un bel ricordo recente della Turchia, questo jet russo abbattuto, e sarà per questo che non ha risposto a Erdogan, che l'ha chiamato. Oggi Erdogan ha detto: io l'ho chiamato, io ho telefonato, ma lui non mi ha risposto. Gigi Donnelli, la tensione è sempre alta, e adesso la Russia sta agendo con una serie di sanzioni, di boicottaggi diplomatico-economici, no, nei confronti della Turchia. Sì, per adesso. Buonasera Roberto, un saluto agli ascoltatori. Per adesso in realtà la Russia sta mediando su una situazione che è comprensibilmente, come dire, vissuta come un vero e proprio shock anche dall'opinione pubblica. Non dobbiamo mai dimenticare che la Turchia è progressivamente diventata negli anni una destinazione di vacanze per milioni di russi. Cioè 5 milioni di russi ogni anno vanno in vacanza in Russia. Non a caso oggi una delle misure di ritorsione, che è stata anche quantificata nel valore di 10 miliardi di dollari, è stato proprio quello dell'invito ai turisti russi a non andare, a quelli che ci sono a tornare. È chiaro che può apparire, può quasi far sorridere, però effettivamente in questo contesto non va sottovalutato il fatto che la Russia in queste ore stia vivendo la sensazione, come peraltro Putin ha detto in maniera esplicita, della pugnalata alle spalle. Infatti leggevo poco fa qui un'agenzia, un'ulteriore dichiarazione di Putin che ha detto: inimmaginabile un tradimento da parte di un paese amico. Allora tenete conto che la conferenza stampa, appunto al termine dell'incontro con Hollande, sta ancora andando avanti, quindi va avanti sta, come accade in questo caso, insomma il Cremlino decide quelli che sono i tempi, no, di una conferenza stampa. Sta andando molto lunga, sembra quasi una sorta di sfogo collettivo in cui da una parte si ribadisce lo stupore, si ribadisce il senso del tradimento, dall'altra si diffondono parole francamente di mediazione, di equilibrio. Quindi contrariamente a certe visioni un po' drammatiche, drammaturgiche, la Russia non sta preparando risposte militari pesanti, però prepara effettivamente delle condizioni che sono nuove. Allora cerchiamo di analizzarne alcune. Una, per esempio, Putin ha detto: abbiamo inviato gli SA-300 sul territorio siriano. Gli SA-300 sono dei missili con uno scopo molto preciso, servono a dare la caccia agli aerei caccia in volo. Che qual è il messaggio? La prossima volta non ci faremo trovare impreparati, anche perché, e questa è una delle certezze di queste ore, Putin ha detto: in Siria andiamo avanti e insistiamo, cioè ci rafforziamo ulteriormente. Quindi insomma Questo è uno degli aspetti di questo rapporto, rapporto che è estremamente complesso. Evidentemente la Russia si sente tradita, la Francia va a Mosca attraverso il presidente Hollande per ribadire l'interesse del, appunto, a costituire questa alleanza. A un certo punto Putin sbotta e dice: noi avevamo dato tutte le indicazioni sul volo, l'orario, dice addirittura, del passaggio del nostro caccia agli americani, eppure ce l'hanno abbattuto lo stesso. C'è anche un linguaggio abbastanza insolito, quasi particolarmente emotivo per il presidente russo, che come sappiamo è uno che organizza molto bene le sue conferenze stampa. Piuttosto freddamente. E, tra l'altro Erdogan ha detto questa cosa piuttosto bizzarra: se avessimo riconosciuto che era un jet russo non l'avremmo abbattuto. Dice: io non chiedo scusa, però devo dire che come se non fosse... Io non chiedo scusa, ma ho sbagliato. Chi ha la mia età sembra quasi di ricordare un vecchio telefilm in cui c'era uno dei protagonisti che non poteva chiedere scusa. Vabbè, esattamente. È strano, però è chiaro che se avessimo saputo che... Allora, qualcuno sta raccontando delle storie, perché Putin dice: nonostante avessimo comunicato alla NATO, tutto, eccetera, loro, insomma, non ci sono evidentemente una coalizione parecchie non zone d'ombra. Molto, ecco. Sicuramente nella dichiarazione di Erdogan, come dire, trapela l'intenzione ovviamente di non drammatizzare. Non dimentichiamolo: due paesi che sì, storicamente hanno avuto parecchi conflitti, ma che negli ultimi anni si sono molto ravvicinati, anche sfruttando quella che è la crisi dei rapporti tra Mosca, l'Europa e gli Stati Uniti e le sanzioni. Il primo a beneficiarne è stato proprio Erdogan e la Turchia, e non è probabilmente come dire, interesse di nessuno, e tantomeno dei turchi, gelare questo sviluppo economico tra i due paesi. Grazie Gigi Donnelli. Buona serata. Ciao Gigi. C'è la pausa adesso, ci vediamo una piccola pausa di ricreazione. Leggevo ancora i vostri messaggi anche sul ministro Poletti. Dice un ascoltatore: Poletti ha ragione, anche se conta anche la qualità del 96 che si prende, ossia quale università si ha frequentato. I vostri messaggi al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dove tra l'altro vi ho riportato questa dichiarazione dell'ex presidente del Consiglio Letta, con molti messaggi che stanno seguendo. Tra poco. Deborah, ti piacciono le favole? Ma certo! E allora è arrivato il momento di dimostrarlo scrivendone una per Natale. Ma chi la scrive? È il nostro amico Andrea Vitali, insieme ai nostri ascoltatori, vero Andrea? Sì, dal 1 al 24 dicembre io darò un incipit nuovo, così gli ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. E il migliore verrà letto in trasmissione e riceverà il nostro libro intitolato Secondo Canto di Natale. Siete pronti? State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens. Finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Scusate, abbiamo fatto tutte queste analisi approfondite sulla ricerca di Hollande di nuove alleanze, dell'intervento adesso della Germania, di quello che ha detto Putin. Roberta Giordano sempre con voi naturalmente. E leggo adesso: Hollande dice, sempre in conferenza stampa con Putin: la Russia e la Francia hanno concordato di compiere attacchi contro solo terroristi, ma è necessario decidere chi non si deve bombardare, ha detto Hollande. Questo vi dice che confusione veramente grande ci sia. E con Erdogan poco fa vi dicevo che ha detto: se avessimo riconosciuto il jet russo non l'avremmo abbattuto. Insomma, c'è molta, molta confusione. Tra pochissimo parleremo dell'allarme sul clima. Intanto vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti. Guerra all'ISIS, appunto la Germania che invia i Tornado, una nave da guerra, in solidarietà con Hollande, e Putin che dice bisogna fare questo passo importante verso una coalizione militare in Siria. Tensione tra Russia e Turchia, con Mosca che lancia una rappresaglia economica nei confronti della Turchia. Renzi alla Sorbona in Francia, dopo aver incontrato Hollande, dice: non rinunceremo mai a vivere liberi. E poi antiterrorismo, c'è stato un vertice oggi in Italia con il ministro Orlando, che ha detto: le intercettazioni sono da fare anche su chat e sulla PlayStation. Questa è la cosa particolare. Poi appello del Papa sul clima, lo sentiremo tra pochissimo, anzi sentiamolo adesso. Per questo spero che la COP21 lleve a concluir un accordo globale e transformador basato nei principi di solidarietà, molto chiaro anche in spagnolo, adesso che in Africa il Papa lancia questo allarme, questo diciamo auspicio che ci sia un accordo globale alla COP21, che è la 21esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che si terrà il prossimo 30 novembre fino all'11 dicembre, che ha il compito di portare avanti i negoziati tra i paesi per cercare di contenere le emissioni di CO2 in atmosfera e contrastare il riscaldamento del globo e quindi i cambiamenti climatici. E cosa arriva? Proprio ora la notizia dell'ultimo rapporto della World Meteorological Organization, che dice non solo il 2015 è stato un anno record per il caldo, ma l'intero quinquennio 2011-2015 periodo più caldo mai registrato. È un cattivo segno? Chiedo a Carlo Carraro, docente di econometria e economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia, direttore dell'International Center for Climate Governance. Buonasera Carraro. Buonasera a voi. Quindi diciamo non sono segnali molto rassicuranti questi, chissà se poi il COP21... Non li chiamerei segnali, sono conferme di un processo che continua da molti, molti anni. Nel corso dell'ultimo secolo la temperatura media terrestre è aumentata di circa un grado, ma in alcune zone del pianeta, ad esempio nella zona artica, è aumentata di 4,5 gradi, con conseguenze gravissime, perché a settembre di quest'anno avevamo solo la metà della superficie del Polo Nord che avevamo 10 anni fa e un quarto del suo volume, quindi conseguenze davvero che non abbiamo mai osservato prima. Il fatto che questo sia stato l'anno più caldo e il quinquennio più caldo è il risultato di un processo che continua da anni ed è la conseguenza di 40 anni di emissioni sempre più rilevanti, perché una cosa paradossale è che abbiamo una COP21 a Parigi, che è la 21esima occasione di negoziati per ridurre le emissioni, ma in realtà negli ultimi 40 anni sono sempre cresciute e non sono mai così tanto cresciute come negli ultimi 10 anni, quindi come più negoziamo e più le emissioni crescono. Perché vuol dire, professor Carraro, che qui si fanno tante chiacchiere, ma in realtà intenzioni concrete non ve ne sono, perché nessuno vuole rinunciare. Beh, questo è successo per 40 anni e i dati sono inequivocabili, non si tratta di fare scenari o previsioni. La differenza è che ci sarà Parigi. Parigi, da quello che vediamo, da quello che i paesi hanno sottomesso come documenti preparatori, sarà una conferenza risvolta, sarà finalmente l'occasione per cambiare passo e non dico che riusciremo a ridurre le emissioni, ma per la prima volta smetteranno di aumentare. Da qui al 2030 si appiattiranno e sarà comunque un grande risultato. Quindi lei è ottimista, professor Carraro, mi sembra. Ottimista perché abbiamo già le carte, cioè 168 paesi hanno deciso di iniziare a controllare le loro emissioni. 168 vuol dire praticamente tutti, il 96% delle emissioni globali. Non era mai successo prima, come non era mai successo prima che si superasse il divario tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Questa volta tutti hanno deciso di accettare degli impegni, chi più chi meno, ma tutti accettano degli impegni per controllare le loro emissioni. E per la prima volta le imprese partecipano a questo processo. Per la prima volta le emissioni smetteranno di crescere. Se tutto andrà come è previsto vada, perché ripeto, i documenti, i paesi, questi 168 paesi li hanno già sottomessi, se tutto va così sarà davvero una conferenza di grande, grande rilevanza. Speriamo allora che sia la volta buona. Grazie professor Carlo Carraro. Grazie a voi. Buona serata. Viabilità. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Alessandro Torregiani sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di quanto ha detto Letta, che ha accusato Renzi di cerchiobottismo, e poi dice l'Italia deve rompere significa rompere il cerchiobottismo con la solidarietà europea e con la Francia, dice Letta, sarebbe una furbizia irresponsabile, è il momento di mettersi con decisione al fianco della Francia colpita, il che non vuol dire, sia chiaro, mandare i nostri soldati a Raqqa. Allora vedo tutti i vostri messaggi un po' nello stesso senso, dice Alessandro, intervengo anzi no, oppure qua guardo solamente però partecipo attivamente, l'Italia sembra, dice, come quei vecchietti che guardano i lavori stradali e pensano di essere loro a lavorare. Vi ricordo le notizie più importanti di oggi, intanto, che sono sempre in primo piano l'intervento della Germania nella coalizione anti-ISIS con dai 4 ai 6 Tornado e una nave da guerra in Siria, gli incontri di Hollande per estendere la coalizione, oggi ha incontrato sia Renzi che Putin, l'abbattimento del jet russo con la tensione che sale sempre tra la Turchia e la Russia, che sta adottando anche delle sanzioni economico-diplomatiche diplomatiche. Bruxelles, il livello di allerta per il rischio di attentati terroristici scende da 4 a 3, ma Bruges-Napoli si sta giocando a porte chiuse. Il viaggio del Papa in Africa, che lancia anche un appello in vista di COP21 per il clima. E poi l'allarme OMS sull'AIDS: in 10 anni niente passi avanti, politiche inefficaci, mai così tanti casi nell'Unione Europea, in Italia record di sieropositivi. Europa 24. Il Parlamento europeo ha deciso di impegnarsi a aumentare il sostegno per l'accesso all'educazione dei bambini nelle situazioni di crisi, non solo sul fronte dei fondi umanitari per l'istruzione dei bambini, ma anche sul fronte dell'impegno da parte di tutti gli stati ospitanti di aiutare i bambini rifugiati a integrarsi nei loro sistemi scolastici nazionali. Questa decisione segue la risoluzione approvata nei giorni scorsi dal Parlamento europeo sul contrasto alla povertà minorile e per ridurre la disparità sociale tra i bambini in Europa. La direzione intrapresa dall'Europa è quella giusta, secondo Raffaella Milano, direttore dei programmi, direttrice dei programmi Italia Europa di Save the Children. Un bambino su quattro in Europa è a rischio povertà ed esclusione sociale, quindi l'approvazione da parte del Parlamento europeo della risoluzione sul contrasto alla povertà minorile è un segnale importante che va nella giusta direzione al fine di ridurre le condizioni di disparità in cui si trovano ancora troppi bambini. Lo sottolinea Raffaella Milano, direttore programmi Italia Europa di Save the Children. Sicuramente un impegno importante. Noi già lo scorso anno come Save the Children avevamo lanciato un rapporto europeo proprio per segnalare la crescita enorme del numero di minori che vivono in paesi europei e che sono a rischio povertà. Parliamo di 20 milioni di bambini e di adolescenti che vivono in famiglie che affrontano il tema della povertà e della deprivazione. Tutta l'Europa si è impoverita e i minori nella gran parte dei casi sono stati proprio la fascia più colpita dall'impoverimento, rappresentata da minori migranti, bambini che sono in famiglie monogenitoriali, che vivono in famiglie dei cosiddetti working poor, cioè famiglie dove il livello di lavoro non è sufficiente a garantire i consumi primari. La risoluzione sul tema della riduzione della disparità sociale dei minori ha misure concrete. Qual è quella più importante? Ma per noi è sicuramente questo tema della Child Guarantee, cioè di fare in modo che su alcuni pilastri fondamentali, parliamo proprio di cure sanitarie, educazione, servizi per la prima infanzia, condizioni abitative e nutrizione, su questi 5 pilastri vi sia un intervento degli stati per fare in modo che uno standard minimo venga assicurato ad ogni bambino. Proprio in merito all'educazione, il Parlamento europeo chiede di aumentare il sostegno, lo chiede ai paesi membri, per l'accesso all'educazione dei bambini nelle situazioni di crisi. Si calcola che siano 65 milioni in 35 paesi questi bambini colpiti da situazioni d'emergenza e crisi prolungate, che circa 37 milioni di ragazzi tra i 6 e i 18 anni non vanno a scuola nei paesi colpiti dalla crisi. Bisognerebbe stanziare più soldi, più fondi. Ecco, sì, è fondamentale. Noi come Save the Children ovviamente siamo presenti in molte di queste aree di crisi e l'educazione è una grandissima risorsa. Questo intervento è stato approvato, bisognerà appunto vedere il quantum, cioè le risorse che verranno stanziate, ma comunque assieme a questo provvedimento c'è anche la richiesta agli Stati membri di aiutare i bambini rifugiati a integrarsi nei loro sistemi scolastici nazionali. Certo, consideriamo anche quanto sta avvenendo anche in questo periodo in Europa. Noi bene o male in Italia abbiamo già vissuto questo flusso massiccio anche di bambini e di adolescenti. Per loro un percorso educativo è proprio fondamentale per cercare di ricostruire, mettere insieme i pezzi, ecco, e ripensare il proprio futuro. Europa 24. Collaborazione con Euronet Plus. Ancora giusto lo spazio prima del calcio per due messaggi. Uno lo prendo dal 349-238-6666, uno dalla pagina Facebook di Effetto Notte. Questo sulla pagina è sempre relativo a dichiarazione sul cerchio buddismo di Letta. Murray dice: commento che la guerra non è la nostra, che ci lasciano in pace, la gente ha altro per la testa e che non osino toccare i soldi dei cittadini per fare una guerra che non è del popolo italiano. Mentre Alberto dice ironicamente: se i turchi avessero saputo che il caccia era russo non lo avrebbero abbattuto. Erdogan come Scaiola, il caccia è stato abbattuto a sua insaputa. Giovanni Capuano invece sa bene come stanno andando le partite in Europa League, Giovanni? Eccomi, sì, siamo assolutamente consapevoli e anche consapevoli che è una buona serata per le italiane. Allora, ti avevamo raccontato prima della vittoria della Lazio 3-1 sul Dnipro e quindi Lazio qualificata ai sedicesimi di finale, e tra l'altro sono arrivati anche gli altri finali ed è qualificata da prima nel girone, che è importante in vista del sorteggio poi per la seconda fase, perché la Lazio c'entrerà da testa di serie. Il gol di Candreva al quarto minuto, il pareggio nella ripresa di Bruno Gama, ma subito dopo tre minuti al ventitresimo il 2-1 di Parolo, e poi nel finale il 3-1 di Djordjevic. Poi avevamo raccontato del 2-2 beffa un po' per la Fiorentina, perché la Fiorentina a Basilea, dove si giocava la qualificazione, era passata addirittura in vantaggio per 2-0 con due gol nella prima mezz'ora di Bernardeschi. Era pure rimasta in 10 in mezzo per l'espulsione di Facundo Roccaglia. Si era vista anche negare un calcio di rigore netto. Fiorentina che per 74 minuti è stata qualificata, poi però c'è stata la rimonta del Basilea, il gol di Succi al 40esimo e nel secondo tempo alla mezz'ora il 2-2 di Elneny, il che significa che il Basilea va ai sedicesimi di finale e quasi certamente da primo in classifica. La Fiorentina deve aspettare ancora l'ultimo turno, fra due settimane gioca in casa contro i portoghesi del Belenenses, che hanno pareggiato 0-0 contro l'Lech Poznan, basta un pareggio ai Viola per passare il turno, insomma è quasi fatta, però per 74 minuti il discorso poteva essere chiuso stasera. Invece il Napoli, che sta giocando a Bruges tra misure di sicurezza eccezionali per l'allarme terrorismo, lo stadio completamente vuoto, il Napoli che viene scortato in ogni passaggio di queste 48 ore di trasferta in terra belga, beh, il Napoli sta vincendo 1-0. Decide fin qui un gol di Kirikesh, difensore di riserva schierato al posto di Albiola, al 41esimo una deviazione di destro al volo anche un po' fortunata in mezzo all'area di rigore. Però il Napoli è in un momento straordinario, perché pur con una formazione che per 8-11esimi è fatta di riserve, sta dominando questa partita in terra belga contro il Bruges, sta vincendo meritatamente 1-0. Napoli che è già qualificato ai sedicesimi di finale, è già certo del primo posto in classifica. Però insomma, vedere giocare la squadra di Sarri in questo momento è davvero bellissimo. Bene, bene, fa piacere. Grazie Giovanni Capuano, questo per il calcio, noi ci risentiamo alle 22.